2, 3, prova, mi senti Rita? Mi senti? Prova, prova. Ecco, mi senti bene perché sono agganciato anche, guarda, aspetta. Adesso scatto, guarda. Adesso sono staccato, mi senti lo stesso? Prova, prova. Ma tu non arrivi però, Rita. Non so, prova. Fai, tocca qualcosa. Non lo so, cioè, prova. 1, 1, 1, 1. Fai 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Prova. Oh. Allora un po' mi senti, prova. Vabbè, tu mi senti. Stefano, mi senti? Vabbè, quello che conta la radio comunque, vabbè, poi... dipende anche dalla ricezione della persona. Se che male ce l'ha messa bene, che era una buona massa, ricevi bene. Però se l'altra non ha una buona massa, Rita, non ricevi bene. E poi anche la posizione conta molto. Ma Radio Bassa, io o Torino? Ho capito. Io arrivo a bomba. Tu sette Radio Bassa. Non capisco se Radio Bassa io o Torino. Vabbè, Torino sta andando con 5 watt, vero Torino? Che c'è 5 watt? Infatti, immaginavo. Vabbè. È tantissimo, ragazzi. Praticamente c'ho un problema, Torino. Allora, il mio PC non vedo la mia rete. Adesso che metto da poco, ho messo la fibra, che ho la linea normale. Quindi qui vedete altre reti, ma la mia non la vedo. Adesso sto salvando tutto quanto, tutte le cose che ho dentro. Come si dice? E me l'ho formato, vediamo un po'. Se no non so cosa sia il problema. Casino. Gianni non lo vedo, Gianni ci sei. Sento sotto pio pio proprio, questo baracchino non c'è sotto. Come mai te ne hai venuto tutto? Non te l'ha putti nulla? No, non c'era più nessuno, poi io sono pigiaranese, a me piace, non lo piace, non più capito lui. Non me ne ha putti nulla, io stai tranquilla, poi vuoi tre canali, no, ascolta e basta, va bene così. Lo devo dire, ma a troppo sotto televisione, che tu c'hai, c'è la magia, che ogni volta era ricordo te, poi ce l'aveva. Allora, Tony, il problema della televisione sai cosa è? No, ci ricordiamo la password per resettarlo. Ma è strano, l'ho portato a te, l'altra volta aveva fatto difetto, e cioè non ha fatto difetto, perfetto. E infatti ha funzionato bene anche in casa mia. Cosa ne basta con la magia? Ottimo, Tony. Però domani io devo... domani non ce la faccio, Tony. Devo tirare la porta di casa, la porta del robuzzino con la vicina di casa. E domani avrò tutta la giornata piena. Luca, non ti sto dicendo di fare domani, io non metto fretta a nessuno. Tu me lo puoi fare neanche fino a sabato o domenica. Il problema è che non so dove metterlo. Siccome arriva anche uno di Ignazio che lo devo sistemare, ma lo voleva indietro, poi gli ho detto, cosa vuoi fare? Devo stare TV. Prima la voleva indietro, no, buttala. Infatti la devo smontare, staccarmi i pezzi buoni, poi la butto. È che non c'ho posto, capito? Siccome me ne ho uno grande, vabbè, lì è sopra il mobile. C'ho 55 pollici. Tu dimmi quanto te la posso portare allora? Allora, oggi è martedì, no, è martedì. Forse venerdì o lunedì prossimo. Ma lunedì è Ferragosto, non è neanche. Ma il 14 lunedì, così è. Lunedì è 14. Il 15 è Ferragosto. Tony, dopo le feste. Ok, dopo le feste tra poco. Già te lo ricordo io. Verso il 16-17 mi fa anche bene. Ok, va bene, così ti imparassi anche dell'altra. Andrà bene. Ho visto una cosa strana su internet, non so se l'hai mai provato. Queste lampadine che avevano noi a LED, quando si fumino, a vedere che uno l'ha aperta, si è messo un po' di graffite sopra la lampadina fuminata, il LED fuminato, graffite serve la matita, capito? E ha funzionato. Hai fatto mai? Lampadina LED sì, ma saltella, faccio prima eliminarlo, faccio un ponte e funziona. Perché basta che se ne fulmina una non funziona più, è tutto così. Va bene, dai, ti lascio con Rita, ma sono le 25, che insomma io non la sento, sono QRM. Sono entrato più che altro e poi dato che sto zitto dentro del televisore e mo spengo tutto e mi guardo la TV che ho quella grande in cucina, dai. Ok, dai, Lu, allora ci sentiamo, te la porto dopo l'effetto, eh. Bene, bella, buona continuazione, ciao Gianna Rita, che sono l'assetto. Ciao Luca, alle prossime, eh. Ciao, buonanotte, cosa lo fai? Ora mi dicevamo da un'amica, una che parlava parecchio tanti anni fa, dai. Ehi, Antonio, dai, ci sentiamo, ci vediamo, dai, dopo le feste, buonanotte, ciao. Ciao, ciao.